Buonasera o buon pomeriggio a tutti quanti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città del Capo. Questa è This Is Not an Exit. Abbiamo mancato il 25enne della caduta del muro per qualche mese, ma dai, ce lo potete perdonare, dico bene, dottor Scarpa? Certo, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Stasera è davvero una puntata impegnativa, al di là, insomma, è proprio per il nome del gruppo, insomma, già abbiamo difficoltà con l'inglese, figurati con questo tedesco qua. Il gruppo è, sono gli Einstürzende Neubauten, aiutami Babe per piacere. Einstürzende Neubauten? Poi proviamo con Google Traduttore. Sì, un nome insomma in italiano, ecco, traduciamolo, è nuovi edifici che crollano, che si riferivano appunto agli edifici costruiti dopo il 45, fatti insomma in un certo modo molto molto in fretta e molti cadevano. Infatti ci fu l'episodio dell'edificio che crollò, che provocò la morte di una persona, e da lì insomma il gruppo ebbe anche il successo, insomma, è vero, gli edifici nuovi che crollano. La Germania insomma è stata ricostruita troppo in fretta e anche molto male, e quindi il gruppo, il nome era azzeccatissimo per il tempo. In questo 1989 però, novembre 89, crolla solo una parete, molto grande, molto però importante, molto simbolica, molto lunga. Sì, infatti il 10 di ottobre Günter Schabowski, capo della SED, membro del Politburo e quindi insomma candidato a, insomma, come riformista più convinto, annuncia a sensazione che il crollo definitivo del muro, come se si trattasse di una cosa normale, insomma, lo dice, la gente dice ma sta prendendo in giro questo qua o parla sul serio? E insomma il 10 novembre cambia un po' il mondo, no? E qualche tempo prima, il 5 di novembre, c'è stata la prima manifestazione autorizzata nella storia della Repubblica Democratica Tedesca, trasmessa addirittura in diretta da una televisione locale di Berlino. E da lì in poi, insomma, sappiamo come poi sono andate le cose. E musicalmente cosa esprimevano questo gruppo tedesco, Babbo? La cosa micidiale è che esprimevano sempre una sensazione di attesa di qualcosa di apocalittico che doveva accadere, ma nei loro brani almeno non accadeva mai. Sag es mir. eine Stunde verreckt. Was wünschst du dir für deinen Vater? Sag es mir. Ich wünsch ihm einen Stuhl im Himmel. Caos sicuramente, anche non solo un senso di attesa, anche di oppressione che c'era comunque, ma anche un modo di suonare. Ricordiamo che usavano martelli pneumatici, ruspe, pezzi di metallo che poi tagliavano con una sega circolare sul palcoscenico, ma era comunque un caos organizzato, soprattutto i primi dischi. Poi in questo 89 stavano cercando di mettere un po' le cose a posto o comunque di far rientrare in una forma canzone, stavano cambiando i tempi. Eppure, come diceva prima il buon dottor Scarpa, le cose andavano veramente in maniera caotica, nel senso che la conferenza stampa fu disastrosa. È vero, per tutto 89 cominciarono, i tumulti cominciarono più o meno a essere sedati, ma oppure a manifestarsi per davvero. E a quel punto il Politburo dovette muoversi, cosa che non faceva da parecchio tempo. Ma non fu una vera e propria vittoria delle forze della libertà, come è stato poi narrato, come tutti sappiamo dai grandi media. No, non fu esattamente così. È proprio vero, la scintilla fu causata, chiaramente preparata dai tumulti precedenti, dalle manifestazioni di piazza Berlino Est. Ma poi la scintilla che fece appiccare l'incendio, oppure crollare il muro di Berlino, fu data da questo rappresentante, portavoce del Politburo della Germania Est, che in una goffa conferenza stampa quasi teatrale, quasi da teatro dell'assurdo, o un misto di teatro dell'assurdo e burocrazia kafkiana, convinse implicitamente, involontariamente i media occidentali, che poi furono ascoltati in maniera pirata, non si poteva, dall'altra parte del muro, dagli abitanti di Berlino Est, che ci fosse una qualche libertà di transito. Hier leben die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Festgebunden auf einem Küchenhocker sitzt ein Irrer, der glaubt alles, was er anfassen kann. Seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss. Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum. Betrachten die Wände aufmerksam, suchen darauf Bahn um Bahn nach Druck und Rechtschreibfehlern. Könnten nicht mal ihren Namen entziffern. Auf ins nächste Geschoss. Welches und wunder nie fertiggestellt, nur über die Treppe erreicht werden kann. Hier lagern Irrtümer, die gehören der Firma, damit kacheln sie die Böden an, die darf keiner ran. Viertes Geschoss. Hier legt der Architekt, der geht auf in seinen Plan, dieses Gebäude schmeckt voller Liebe. Schild durch den Schild und Ci sono veramente un sacco di rumori concreti che sembrano lasciare intuire che ci siano cose che stiano crollando, si stiano disfacendo, ma in questi primi giorni del novembre dell'89, siamo più di 25 anni fa, il tempo passa, insomma non ha nessuno, che io mi ricordo, un ragazzetto però, nessuno poteva venire in mente che da un giorno all'altro le autorità tedesco orientali avrebbero lasciato i loro cittadini dopo più di 20 anni, di 26, 27, da 61 era stato eretto il muro, se non vado errato, avessero lasciato i propri cittadini attraversare così facilmente il confine. E invece successe in maniera veramente goffa, come abbiamo prima accennato. I tedeschi avevano dato origine a qualche manifestazione e Gunther Brockhoff aveva dovuto tenere questa conferenza stampa senza neanche essere coinvolto nella decisione vera e propria, sembra, col senno di poi. Ma comunque, anche se vedete su YouTube la conferenza stampa, è veramente goffa, e a un certo punto alle domande incalzanti dei giornalisti, quella critica fu di un giornalista freelance italiano, tra l'altro, che gli chiese appunto: ma allora sarà possibile per i cittadini attraversare il confine? Beh, insomma, il funzionario di partito si trova un po' in difficoltà, comincia a guardare nelle sue scartoffie che probabilmente aveva letto un po' in fretta e non aveva di certo contribuito a scrivere, e dice: beh sì, probabilmente sì. E da lì, insomma, da lì a poche ore qualcosa sarebbe sicuramente cambiato per sempre, non penso che se la sarebbe aspettata neanche lui. Sì, poi comunque consideriamo quello per il gruppo, cosa era successo nell'89. Presentano il disco, che è praticamente è il quinto loro, Aus der Lüge, e vengono anche in Italia a presentare il disco, però qualche mese prima della caduta del muro, nel marzo vanno a Torino, a Lingotto, che ormai è una fabbrica dismessa anche quella, e presentano il lavoro Fiat Lux, che è praticamente una suite concreta del disco in tre movimenti. Vabbè, non era proprio perché suonavano al Lingotto che l'avevano chiamata Fiat Lux, però qualcuno ci ha marciato su questa storia qua della Fiat Lux. Li avranno chiamati apposta. No, vabbè, comunque sappiamo che è una locuzione latina che si è fatta luce, quindi hanno usato una frase biblica per fare, insomma, il titolo alla suite. E il concerto era intitolato Dramma, Pathos e Menzogne, e insomma comprendeva un inedito allestimento sonoro denominato appunto Fiat Lux, no? E luce sia. E comunque questo è stato l'ultimo disco, per certi versi anche per loro, insomma, anche per artisticamente. Poi la caduta del muro li ha cambiato anche grazie all'amicizia di Briggs Bargeld con Nick Cave, e sono poi hanno cambiato pure etichetta, hanno passato all'etichetta inglese della Mute Records, appunto. E insomma, cosa si può dire? Un modernismo primitivista, no? Quello dei Essence and Neubauten, no? E che esplora, insomma, le forme più audaci dei suoni, facendo uso dei mezzi più umili, e, insomma, martelli pneumatici, anche carne. E agli esordi addirittura fecero un concerto a Londra finanziato dal ministro della cultura, e poi, visto che, insomma, il successo che ebbero, insomma, le critiche, perché comunque distrussero il teatro a furia dare col martello pneumatico, ci fu addirittura un'interrogazione parlamentare nel parlamento inglese che diceva: sti soldi poi a chi li diamo, a chi poi distrugge i nostri teatri? Insomma, ci fu questa addirittura interrogazione parlamentare. Ricordiamo che fra gli altri in quel periodo giravano a Londra anche i Throbbing Gristle, quindi altri belli personaggi, insomma, era quello il giro che stava a Londra in quel periodo, anche se loro venivano da Berlino. Doch das beweist nichts. Inmitten meiner Kreise, doch deren Mitte bin ich nicht. Regenslauf wartend wartend wenn du kommst. Kommst du mit Licht, du kommst strahlend. Zählst meinen Schatten auf, zählst meine Kerben und schlägst mich auf. Öffnest mein Versteck. Liest, liest mich laut, damit auch ich mich hören kann. Wenn du gehst, fragst du, wer von uns beiden.

Wieder morgen, morgen. Kos, was? What weisen? No, mi rifiuto di dire il nome del gruppo perché penso, bravo col tedesco come non te. Penso di essere in grado, ecco. Dai, a parole tue. Lo diciamo con beneficio degli inventari per i nostri ascoltatori. Einstruzende Neubauten. Siamo nel 89 e qualcosa è già crollato. Anzi, qualche maseria stava crollando pure fino in Italia. Sì, curiosità, una delle tante è il fatto che la loro prima esibizione, 1980, tenuta in un ex mattatoio, che poi non era altro che il centro, il fulcro di un certo tipo di genere musicale, dove poi alla fine parecchi gruppi passavano da là, quindi comunque una sorta di canale di propagazione di un certo tipo di discorso musicale, rumorista in genere. In buona parte penso che comunque i buoni Crucchi, insomma, ci hanno dato e hanno dato fondamentalmente anche un impulso abbastanza importante per quanto concerne anche il discorso politico, se vogliamo, cioè il loro discorso musicale poi alla fine è passato da un giocare con le parole prima del muro di Berlino, prima della caduta del muro di Berlino, a testi estremamente diretti e quindi senza andare lì a girarci troppo subito dopo la caduta, insomma. In tutto questo, anche musicalmente, penso che fondamentalmente il discorso eroina sia stato di buon aiuto per poter mettere. Non facciamo apologia di consumo, per piacere. Ma assolutamente no, però insomma la dice lunga anche su un certo tipo di non malcontento, ma sicuramente disagio. Loro penso che fossero una bandiera per al tempo, insomma, di un certo tipo di personaggi che giravano là nella Berlino pseudo bene, insomma. Comunque diciamo che dopo la caduta del muro il discorso si faceva abbastanza serio, sì. E sì, insomma, anche loro iniziavano a fare un po' delle dichiarazioni abbastanza politiche, no? Nei testi, diciamo, sì, che passavano, insomma, a un altro impegno politico-musicale, ecco. Zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das All. Kein Di-Di-Di-Di-Di-Di, nur Di-Di überall. Mehr Di-Di-Di-Di-Di und Di-Di-Di zuhauf. Nur die Liebe und das Wetter hören nimmer auf. Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung von Jugendstreckerbahn. Keine Gravitätlichkeiten schweben, fällt uns schwer. Und Schluss mit Kontinenten, tritt man der wieder her. Was nicht ist, ist möglich. Wir fordern mehr Di-Di-Di mit unserem Di-Di-Charme. Mehr Di-Di und Di-Di-Di, Birnenmarzipan. Wir wollen noch mehr Stress und Substanzen illegal. Kein Montagsreste essen, 5 Sterne minimal. First class bonus ticket from Paris to Berlin. Ein Kisten mit Champagner, Bio-Wodka, Bio-Gin. Ein Weltgebäude ohne Wände, so viel Platz muss sein. Einen Morgen ohne Kater, ohne Reihe, nicht allein. Wir fordern Sonnenuntergang fürs ganze Abendland. Tanzvermögen unerschöpflich, Nacht danach ist lang. Ohne Kritik, ihr und jenseits von Kritik. Ein völlig leeren Himmel, angereichert mit Musik. Wir schreiben schwarze Zahlen in zootopische Kalkül. Wir fordern Fingerspitzen und das passende Gefühl. Tagsüber auf die Sterne, mehr Sterne überhaupt. Und heute schon die gestrigen zum Untertagebau. Was ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist möglich? Schlungen unserer Umlaufbahn. Endgültige Befreiung vom Judenschreck auf Bahn. Keine Gravitätlichkeiten, Fliegen fällt uns schwer. Schluss mit Kontinenten, trifft man eher wieder her. Zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das All. Kein nur überall. Mehr die und zuhauf, nur die Liebe und das Wetter. Wir wollen züngeln, zündeln, wandeln, tänzeln auf dem Rad. Polemische Verschlankungen für den ganzen Staat. Und die, keinen Kopfsalat. Gefängnis für Hans Mustermann, für Fälschung und Verrat. Wir fordern auch die Buchstaben zurück ins Alphabet, damit unser eins in Babylon gestammelt sich versteht. Wir fordern Folgezeug, die Musik muss endlich richtig laut, damit uns jemand glaubt. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht ist, ist möglich. Nur was nicht ist, ist möglich. La storia avanza a velocità incostante e di colpo, in pochi e intensi giorni, si possono cancellare decenni di immobilismo. Così il muro di Berlino, aperto ieri quasi a sorpresa dalle autorità della Germania Est, si è sbriciolato come colpito da una fulminea fatiscenza. A Berlino la gente è in festa, la forza della protesta popolare ha avuto ragione della rigidità del sistema. Per alcuni quella di ieri è stata una gita incredibile oltre il muro, una possibilità fino a poco tempo fa inimmaginabile e perciò da non perdere. Al mattino molti sono tornati a Berlino Est, ma per altri è cominciato l'esodo. Non si hanno cifre per il momento, si parla di un totale di 200.000 persone che hanno varcato i punti di controllo nel muro. Niedrig, Bilirubin verschwindet. nosotros nos tomamos y borracho a este tema. Juntos todos brindamos sobre nuestras cabezas, abajo de nuestros pies y en el subsuelo. Rodamos sobre el suelo. Si tienes algo para mí, dámelo todo, por favor. Si tienes algo para mí, dámelo todo, por favor. Beh, insomma, comunque sia, comunque fosse, il gruppo era stato importante a modo suo per tutta una scena berlinese che di sicuro non era da sottovalutare, ma non solo gli Einstürzende Neubauten suonavano a Berlino Ovest e suonavano un po' in tutta Europa. Le cose stavano cambiando in questa fine degli anni Ottanta. Emblematico fu il doppio concerto che Springsteen tenne a Berlino Est nell'87. Non so se fece due date, non ricordo bene, ma comunque si radunarono qualcosa come 300.000 persone. Un fatto inusitato, infatti è una delle tante concessioni che il regime ormai è sempre più barcollante. Diciamo che anche ricordiamo che anche il supporto sovietico da Mosca stava un po' traballando, e sia in tempi di Glasnost Gorbaciov aveva le sue gatte da pelare, e quindi probabilmente anche il politburo sovietico, ma tedesco, aveva i suoi problemi. Qualche concessione, a forza di vedere giovani soprattutto nelle piazze e temendo di perderli per sempre. Ricordo che il muro nel 61 fu ufficialmente innalzato per impedire che spie o comunque iniziative di stampo fascista entrassero nella Germania Est, ma in realtà una delle principali preoccupazioni sembrava fosse quella che gran parte delle maestranze istruite o laureate o tecniche se ne sarebbero andate, se ne stavano già andando per tutti gli anni 50 a Ovest a cercarsi un lavoro, lasciando tutta la Germania Est senza tecnici e quindi non più in grado di mandare avanti l'apparato produttivo, che effettivamente poi risultò alla fine della caduta del muro, ai tempi dell'Unione, uno dei problemi principali, cioè tutta l'industria, l'apparato produttivo della Germania Est risultò praticamente inutilizzabile. Alles, was ich warf, fing ich auch. Dies ist ein Kuss. Dies ist die Mündung. Dahinter lauf. Lass ich warf. Thank you. Bene, che altro aggiungere? Un gran bel gruppo sicuramente, questi Eastern Zender Neubauten, molto diversi, questo disco dell'89 insomma l'abbiamo tirato fuori perché comunque era l'anno della caduta del muro di Berlino, abbiamo un po' parlato di quello, e molto diversi insomma rispetto agli esordi, davvero il primitivismo dei primi lavori dall'80 all'83, i singoli davvero, musica davvero... Non manco industriale, è davvero meccanica, no? Cioè meccanica nel senso che si sente proprio i rumori della roba meccanica che cade, che percuote qualcosa. Davvero. Invece questo disco è molto, molto bello. Vabbè, che ne dici? Vabbè, quantomeno dovettero fare anche loro i conti con il mercato e con l'industria discografica, il passaggio alla Mute comunque li portava a platee più ampie e vabbè, fecero di necessità virtù. Riuscirono comunque a traslare quello che era il portato dell'avanguardia, che comunque rimane per antonomasia sotterranea, underground, e come dicevate prima, si esibivano nei macelli di Berlino, ma non potevano farlo ovunque. Penso che l'abbiano fatto anche qua a Bologna, all'isola del cantiere, tant'è che li fermarono perché col martello pneumatico stavano sfondando il pavimento dell'isola. Hanno fatto danni un po' ovunque, penso. Sì, a Londra, insomma, ma non potevano farlo ovunque. Stessa cosa su CD, anzi, penso che non avesse neanche tanto senso. Avranno avuto l'assicurazione, penso, che li accompagnava. Sì, l'Inter Alliance, però, perché dai e dai. Ma infatti i loro dischi non so quanto senso avessero, erano praticamente delle testimonianze sonore di quanto lo facevano su palco, ma era una cosa veramente un teatro dell'assurdo, un teatro del... Ma scusa, cioè, ma si voleva lo spettacolo, loro furivano lo spettacolo, ma che ci si lamenta a fare? Fuochi d'artificio. Capito, cioè. Comunque, siamo in chiusura, mettiamo l'ultimo brano, salutiamo tutti, questa puntata è volata tra clangori industriali. Un attimino, ti interrompo perché volevo dire una robina così in chiusura per chi fosse interessato tra i nostri ascoltatori, che sabato ci sarà un clinic di batteria, verrà a Bologna Rafael Saini, ex iCert, Cripple Bastard, eccetera, quindi chi fosse interessato ci contatti e insomma diamo qualche dritta su cosa fare, oppure vada direttamente nel sito di Rafael. Punto. E con questa... Pubblicità? No, sto scherzando. No, è solo un'informazione, nulla più. Buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento con If the Kids Are United, che sono qua che scalpitano. E a risentirci sempre dopo il giornale radio su Radio Città del Capo. Ciao a tutti e a tutte. Ciao.